Capitolo 95esimo. La nascita di Teseo. La prima moglie di Egeo fu Melite, figlia di Oplete, e la seconda Calciope, figlia di Ressenore, ma nessuna delle due gli diede dei figli. Attribuendo tale sventura, come pure la triste fine delle sue sorelle Procne e Filomela, alla collera di Afrodite, egli introdusse il culto della dea in Atene e poi si recò a consultare l'oracolo di Delfi. L'oracolo gli disse di non aprire la bocca del suo rigonfio otre divino finché non avesse raggiunto il punto più alto di Atene, a meno che non volesse un giorno morire di dolore. Ed Egeo non seppe interpretare questo responso. Lungo la via del ritorno si fermò a Corinto. Colà Medea gli fece giurare solennemente che egli l'avrebbe protetta dai suoi nemici semmai essa si fosse rifugiata ad Atene e si incaricò di procurargli un figlio con opera di magia. Egeo si recò poi a Trezene, dove i suoi vecchi compagni Pitteo e Trezene, figli di Pelope, erano giunti recentemente per dividersi il regno con re Ezio. Ezio era succeduto al padre suo Antade, figlio di Posidone e di Alcione, il quale, dopo aver fondato le città di Antea e Iperea, era salpato per fondare Alicarnasso in Caria. Ma pare che Ezio non avesse grande potere perché Pitteo, dopo la morte di Trezene, fece di Antea e di Iperea una sola città che dedicò ad Atena e a Posidone, chiamandola Trezene. Pitteo fu l'uomo più saggio e colto del suo tempo e si cita spesso uno dei suoi apoftegmi morali sull'amicizia. Non deludere la speranza che l'amicizia alimenta, ma appagala pienamente. Egli fondò un santuario di Apollo oracolare a Trezene, che è il più antico dei santuari esistenti in Grecia, e consacrò altresì un altare alla triplice dea Temi. Tre troni di marmo, ora posti sulla sua tomba presso il tempio di Artemide Salvatrice, venivano usati da lui e da altri due uomini quando sedevano in giudizio. Pitteo insegnò anche l'arte oratoria nel santuario delle Muse a Trezene, santuario fondato dal figlio di Efesto Ardalo, supposto inventore del flauto, e si consulta ancora un suo trattato di retorica. Ora, mentre Pitteo viveva a Pisa, Bellerofonte aveva chiesto in sposa la sua figlia Etra, ma, caduto in disgrazia, era dovuto fuggire in Caria prima che si celebrassero le nozze. Benché si considerasse ancora legata alla promessa fatta a Bellerofonte, Etra aveva ben poca speranza che egli tornasse. Pitteo, che non gradiva la forzata verginità della figlia ed era altresì influenzato dal magico influsso che Medea esercitava su di lui da lontano, fece ubriacare Egeo e lo mandò a letto con Etra. Nel corso della medesima notte anche Posidone godette di lei, poiché, obbedendo a un sogno provocato da Atena, Etra lasciò Egeo e raggiunse l'isola di Sferia, vicinissima a Trezene, portandogli bagioni da versare sulla tomba di Sfero, l'auriga di Pelope. Colà, con la connivenza di Atena, Posidone si giacque con lei, ed Etra in seguito mutò il nome dell'isola da Sferia in Iera, sacra, e vi eresse il tempio di Atena Apaturia, promulgando la legge che ogni fanciulla di Trezene dovesse d'allora in poi offrire il proprio cinto virginale alla dea prima delle nozze. Posidone tuttavia concesse generosamente a Egeo la paternità del bimbo che fosse nato da Etra nel corso dei 4 mesi seguenti. Egeo, quando si destò nel letto di Etra, le disse che se un figlio fosse nato dal loro amplesso non doveva essere esposto ma bensì allevato segretamente a Trezene. Poi ritornò ad Atene per celebrare le Panatenee, dopo aver nascosto la propria spada e i propri sandali sotto un masso noto col nome di Altare di Zeus il Forte e che sorgeva lungo la strada da Trezene a Ermione. Se il ragazzo, raggiunta la maturità, avesse avuto la forza di spostare il masso e di recuperare la spada e i sandali, si sarebbe dovuto mandarlo ad Atene. Frattanto Etra doveva tenere la bocca chiusa affinché i nipoti di Egeo, i 50 figli di Pallade, non congiurassero contro la sua vita. La spada era un pegno avuto da Cecrope. In una località ora chiamata Genetlio, sulla strada che conduce dalla città al porto di Trezene, Etra diede alla luce un figlio. Taluni dicono che essa lo chiamò subito Teseo, perché dei pegni erano stati depositati per lui. Altri sostengono che il giovane si meritò in seguito quel nome ad Atene. Egli fu allevato a Trezene, dove il suo tutore Pitteo prudentemente mise in giro la voce che il bimbo era figlio di Posidone. e un certo Connida, cui gli ateniesi sacrificano tuttora un ariete il giorno precedente le feste tesee, gli fu pedagogo, ma altri dicono che Teseo crebbe a Maratona. Un giorno Eracle, mentre pranzava a Trezene con Pitteo, si levò di dosso la pelle di leone e la gettò su uno sgabello. I fanciulli del palazzo che entravano in quel momento fuggirono tutti strillando, salvo il piccolo Teseo di 7 anni, che strappò un'ascia da un ceppo e si preparò coraggiosamente ad affrontare un vero leone. All'età di 16 anni Teseo si recò a Delfi e consacrò ad Apollo la sua prima ciocca virile. Egli si rasò tuttavia soltanto la parte anteriore del capo, come gli arabi e i misi o i valorosi abanti dell'Eubea, che privano così i nemici di un notevole vantaggio nel combattimento a corpo a corpo. Questo tipo di tonsura e il sacro recinto dove la cerimonia ebbe luogo si chiamano ancora Tesei. Teseo era ormai un giovanetto forte, intelligente, saggio, ed Etra, guidandolo al luogo dove Egeo aveva nascosto la spada e i sandali, gli narrò la storia della sua nascita. Egli spostò senza alcuna difficoltà il masso, chiamato di poi Roccia di Teseo, e recuperò i pegni lasciati da suo padre. Tuttavia, nonostante i consigli di Pitteo e le suppliche della madre, anziché raggiungere Atene per la via del mare, che era più rapida e sicura, volle viaggiare per terra. Lo spingeva il desiderio di emulare le imprese del suo cugino germano Eracle, che egli molto ammirava. Pitteo è la forma maschile di Pittea. I nomi delle città che egli unì per formare Trezene ci inducono a pensare a una triade matriarcale di dee calendariali, composta di Antea, fiorita, dea della primavera, di Iperea, che sta sopra, dea dell'estate, quando il sole è alto allo zenith, e di Pittea, dea del pino, venerata in autunno, quando Attis Adone era sacrificato sul suo pino. Queste divinità si possono identificare con la triplice dea Temi, cui Pitteo innalzò un altare, poiché la stessa Trezene è evidentemente una forma contratta di Trion e Zomenon, la città delle tre che stanno sedute, con riferimento ai 3 troni sui quali sedeva Pitteo, con altri 2, per amministrare la giustizia. In origine Teseo doveva avere un gemello, poiché sua madre si giacque nella stessa notte con un mortale e con un dio. Questa ipotesi è confermata dai miti di Ida e Linceo, di Castore e Polideuce, di Eracle e Ificle. Inoltre Teseo, come Eracle, indossava una pelle di leone e doveva dunque essere il re sacro e non il successore. Ma quando, dopo le guerre persiane, Teseo divenne l'eroe nazionale di Atene, bisognava almeno attribuirgli un padre ateniese, dato che sua madre era di Trezene. I mitografi decisero allora di dare al problema una soluzione ambivalente. Teseo era un ateniese, figlio di Egeo, uomo mortale, ma qualora gli occorresse di invocare Poseidone come padre, poteva farlo benissimo. In ambedue i casi sua madre rimaneva Trezenia, poiché Atene aveva colà importanti interessi. Gli fu anche concesso un gemello onorario, Pirituo, che essendo mortale non poteva sfuggire al Tartaro, come invece accadde a Eracle, a Polideuce e a Teseo stesso. Si fece il possibile per mettere su uno stesso piano Eracle e Teseo, ma gli ateniesi non divennero mai abbastanza potenti per fare del loro eroe un dio olimpio. Pare tuttavia che vi fossero almeno 3 personaggi rispondenti al nome di Teseo, uno di Trezene, uno di Maratona in Attica e un terzo nel territorio dei Lapiti. Questi 3 personaggi furono riuniti in uno solo verso il VI secolo a.C., quando, secondo l'ipotesi del professor George Thompson, i Butadi, una tribù di Lapiti che primeggiò nell'aristocrazia ateniese e tolse ai pelasgi indigeni l'onere della carica sacerdotale dell'Eretteo, valorizzò l'ateniese Teseo come un rivale del dorico Eracle. Pitteo era un appellativo sia eleo sia trezenio, riferito in origine a un eroe eponimo di un demo attico abitato da una tribù cecropica. La visita notturna di Etra a Sferia ci ricorda l'antica usanza secondo la quale le fanciulle nubili si prostituivano volontariamente. Tale usanza fu praticata ancora per qualche tempo nel santuario di Atena, quando già era stato introdotto il sistema patriarcale. È improbabile che l'usanza fosse giunta da Creta, poiché Trezene non è una località micenea. Fu importata probabilmente dai Cananei, come accadde a Corinto. I sandali e la spada sono antichi simboli di regalità. e cavar la spada da una roccia pare facesse parte dei riti della incoronazione nell'età del bronzo. A Odino, Galad e Artù fu richiesto di compiere una simile impresa e un'immensa spada dall'elsa a forma di leone e conficcata in una roccia figura nella scena delle nozze sacre scolpita a Attusas. Poiché la roccia di Egeo è detta sia altare di Zeus il Forte, sia roccia di Teseo, è presumibile che Zeus e Teseo fossero gli appellativi intercambiabili del re sacro che sopra tale roccia veniva incoronato. L'Apollo cui Teseo consacra i suoi capelli doveva essere Caru, figlio della dea Car, altrimenti noto come Car o Cure o Caris, il re solare cui venivano recisi ogni anno i capelli prima dell'esecuzione, come accadde al Tirio Sansone o al Megarese Niso. A una festa chiamata Comiria, taglio dei capelli, i giovani sacrificavano ciocche dei loro capelli in segno di lutto e venivano in seguito chiamati Cureti. Questa usanza, probabilmente di origine libica, si era diffusa in Grecia e in Asia Minore. La troviamo condannata nel Levitico, ma ai tempi di Plutarco, Apollo era venerato come l'immortale dio del sole e, a dimostrazione di ciò, portava i capelli lunghi. La leggenda di Ezio, che divide Trezenia fra Trezene, Pitteo e se stesso, ricorda un'analoga suddivisione di territorio tra Preto, Melampo e Biante. Il Pitteo, che insegnava retorica e i cui trattati erano ancora consultati nell'epoca classica, doveva essere un personaggio storico di epoca più tarda.